Non mi dire che sono io a dire cari amici, care amiche. Volevo dirlo io. L'ho vinto io. Vabbè, allora lo dici tu, dai. Io lo dirò alla fine. Va bene, abbiamo spartito. Buonasera a tutti, buona Pasqua, sì, cioè buona dopo Pasqua. Siamo tornati nello studio. Sì, per fortuna che siamo al chiuso, perché Bruxelles oggi, non lo so, ci vorrebbero le branchie, non so, il costume da bagno. E non c'è il sole, io dico solo dell'acqua, acqua, acqua. Beh, altrimenti andavamo verso la siccità. Sì, vabbè, tu la prendi molto alla lontana. È positiva. È come sempre. Oh, vedo anche George, guardalo lì, oh, che bel cravattino che ha stasera George. Si è fatto bello per la puntata stasera. George? Dottor Giorgio ha un po' raffreddato. Sì, con le dita sul naso. No, è vero, purtroppo mi sono fatto George, non puoi dire che l'allergia, perché con tutta la pioggia che c'è, guarda, ecco. Ma in realtà è cominciata come un'allergia, poi invece virato, è proprio nel senso, vero senso della parola, perché il medico ha detto è un virus, è sì, virato, sì. No, mannaggia. Cioè, allora, A, stammi lontano, B, allergia alla pioggia, te lo dico io. Io sono un vero lavoratore, nei giorni di festa sto a casa malato e poi quando mi rimetto è ora di ricominciare a lavorare. Mannaggia il lupo. Festeggiamo te il primo di maggio. Grazie, mi immolate? Forse prima di tutto vi offriamo un po' di agenda culturale? Sì, siamo del tè coi biscotti. Pochi ma buoni, direi. Vi offriamo, immaginato subito un tè coi biscotti, invece niente da fare. Cioè, scusa, ma il tè con i biscotti deve essere virtuale. Come virtuale, non lo so, forse diventerà una cerimonia zen in cui uno cerca di bere del tè da una coppa vuota. Wow. Poi George, il tè si prende alle 5, non alle 8. Sì, è vero. Però qui viene il sole, va giù più tardi, quindi magari si può spostare di qualche ora. Ma c'è qualcosa di strano stasera, io non ho capito cos'è. Sì che c'è! Non me l'avete detto! Dov'è Maridì? Questo c'è. Dov'è Maridì? In viaggio, sicuramente. In viaggio. Uno dei lunghi viaggi che fa sempre brusellando. Secondo me è andata anche un po' a fare un po' di, tra virgolette, evangelizzazione di brusellando across the world. Io la interpreto così. Ah, ecco, quindi è andata a fare un viaggio, ma il viaggio in realtà è viaggio brusellizzante. Ho capito, ho capito. Ma speriamo che almeno lei abbia il sole. Comunque noi la salutiamo. E se ce l'ha, che ce lo mandi. Sì, se, cara Meridi, che sei in ascolto, siamo certi che sei in ascolto sulle onde virtuali, sui canali internet, visto che, come sapete tutti, oramai brusellando è su streaming, e quindi ci potete seguire in diretta. Chissà, magari ci sta ascoltando in questo momento in diretta, chi lo sa, chi lo infatti, sa. Magari potrebbe anche fare uno squillo sul telefono. Maridi, se ci sei, batti un colpo. C'è, ha detto che c'è. Adesso sentiamo se per caso riesce anche a farci raggiungere la sua voce qui negli studi di Brusellando di Radio Alma. Boh, beh, comunque noi che dobbiamo fare? Anche se lei non c'è, continuiamo. Ci proviamo. The must of the show. Com'è? Go. The must. The go must the show on. Esatto. E vai, the go must the show on. Allora, vi raccomandiamo comunque un po' di brividi stavolta, perché siccome fuori fa freddo, allora è giusto che voi abbiate anche dentro dei brividi, perché è ancora in corso la Brussels International Fantastic Film Festival, BIFF, che ha cominciato già il giovedì scorso e ancora vi riserva un po' di sorprese con una giornata di film dedicato ad opere belghe, che ci sarà il venerdì 13 aprile. Poi ci sarà addirittura anche una giornata Japanimation, quindi dedicato agli anime giapponesi, science fiction, fantasy. Lo dedichiamo a George. Esatto, e che avrà luogo il 15 aprile dalle ore 11. E ovviamente vi dobbiamo dire dove, nella The Cabin in the Woods. The Cabin in the Woods. No, scusa, scusate. Ho detto una cavolata. Ho detto una cavolata perché così vi ho detto anche qual è il film di chiusura del festival, The Cabin in the Woods, il 17 aprile alle ore 20. E tutto questo in tour e taxi, che sapete benissimo dov'è, per una tariffa modica che va dal 12 euro fino al 230 euro, tanto per spaventarvi. E sarebbe dai 12 ai 23, forse. Può darsi che 230 è per tutto il festival. Che magari con 230 euro ti puoi trasformare direttamente nel beef te stesso. Diventi tu il beef. Diventa fantastic, quello. Diventi un anime giapponese. Un anime proprio giapponese, leggo tutto. No, però tu sei scappata con The Cabin in the Woods. Certo che sono scappata. Cioè, che è sto? Cioè, non ti posso dire paura. Niente, è un mistero, è fantastico. Cioè, scusa, ma se io vi rivelo tutto, allora, dove saranno questi famosi brividi? No, questo è vero, però siccome parli di Cabin in the Woods, mi viene in mente questo trend di architettura in Finlandia, non vorrei sbagliare. Nessun brivido allora. No, nel senso che proprio The Cabin in the Woods hanno creato delle case appese agli alberi, appese sugli alberi. Che bello. E ce n'è una, The Cabin, appunto The Cabin in the Woods, che è completamente fatta di vetro. Che bello. Non sono ovviamente delle case enormi. Ma sai tutto, George, sai tutto. Dai, io so che ci si arriva con un po' di fatica, insomma ci vuole un giorno. Pensavo che si prendesse l'ascensore. No, sono delle scale per arrivarci, sempre comunque delle scale. È un'architettura un po' diversa, così cerca di ovviamente di integrare l'architettura moderna con la natura. Qui addirittura proprio appesi agli alberi, mi sembra un po' eccessivo. Però insomma sono sostanzialmente degli alberghi dove si può dormire anche la notte. Quindi è meglio comunque se non vi aspettate un film documentario su questo argomento, comunque aspettatevi un bel filmino un po' fantastico e da brivido. Però non ci sono soltanto brividi a Bruxelles, c'è anche il bel gioco nei sotterranei di Bruxelles, per essere più precisi sotto la Toison d'Or, fra le vestigia dei sotterranei del vecchio palazzo brussellese, che è un programma offerto per i bambini. Una caccia al tesoro è adatto per i bambini da 5 agli 8 anni, che devono essere accompagnati da un adulto, con un prezzo d'entrata di 4 euro e dura un'ora e mezza. Ogni bambino riceve un sacco con del materiale per eseguire la sua missione, con una mappa, con una maschera, con puzzle, con tutto quello che serve per una bella missione sottoterra. E quindi vi potete divertire un po', sicuramente anche da adulti, ridiventare un attimino bambini e divertitevi tanto. Quindi per riservare si deve andare su internet, sul sito www.kaudenberg.com, e tutto ciò fino al 15 aprile. Bene, allora mi sarebbe sotterranei, mi viene in mente un grandissimo libro scritto da Tal, sto guardando il regista perché spero Tal Doriano. Loriano con la L, Machiavelli. Il sotterraneo di Bologna, un grandissimo libro, un bellissimo libro che va assolutamente letto per chi è interessato. E qui come me è sempre stato affascinato dai canali di Bologna, perché ricordiamolo, Bologna, che i cui canali non si vedono più, è piena di canali. Stanno tutti sotto, perché la fortuna di Bologna, quella che ha fatto diventare Bologna, quella che è Bologna la grassa, Bologna la dotta, cioè era la forza economica, e la forza economica derivava dai due fiumi che attraversavano Bologna e quindi creavano forza motrice per i mulini. Per la filatura della seta. E esattamente, ma non sono filatura della seta, ma che era una cosa a molto proposito importante. Di Bologna, anche siccome per... sono tornato nella mia Bologna durante queste brevi ma belle vacanze brevi pasquali, ma intense, ho visitato un bellissimo museo del Genus Bologna, che è questa nuova idea di approcciare la città e di far vivere certi luoghi della città sotto un'altra forma, visitando il palazzo Peppoli, che è un palazzo antico di un'antica signoria bolognese, hanno creato il museo della storia della città di Bologna, e chissà se in futuro non potremo avere un contatto diretto con chi ha messo in piedi questo stupendo museo e magari poter parlare di questo evento, di questo Genus Bononia che sta avendo così successo a Bologna. Però per ritornare a Bruxelles, io avrei un altro suggerimento ai nostri ascoltatori. Bric-à-brac des soldats entre la vie et la mort è una mostra che cerca di mostrare come durante la guerra, in particolar modo la grande guerra, la sopravvivenza di un soldato non dipendesse unicamente dalle armi. Anzi, questa, la sopravvivenza dei soldati era legata a oggetti molto familiari, come, non so, dei cannocchiali, delle scatole di conserva o ancora dei dizionari e delle bussole. Ecco, il Museo Reale dell'Esercito e della Storia Militare cerca di riproporre una selezione di questi oggetti dal 16 di marzo, quindi da un mesetto più o meno, fino al 15 di settembre. C'è molto tempo, il sabato e la domenica l'entrata è gratuita, quindi consiglio a tutti di partecipare e di visitare questa insolita mostra. Gratuita in che senso? Cosa? Gratuita in che senso? Nel senso che l'entrata è gratuita e quindi si può entrare e uscire tutte le volte che si vuole. Non è come quell'altro festival dove si può pagare fino a 230 euro. Diceva il professore di economia che nessun pasto è gratuito. Allora adesso mi viene in mente che... evidentemente ci sarà un altro canale di finanziamento, magari fa parte della dotazione militare che ogni anno ricevono, l'obiettivo magari è di diffondere un po' queste cose, non lo so. Beh, interessante, la tipo di costruzione, che sono ormai le 20:14, abbiamo cominciato a 15 minuti, che ne dici di mandarmi un suggerimento? Un po' di musica? Chiediamo al nostro grande regista dietro l'acquario se ci può mettere su della musica. Eccoci di nuovo in studio dopo questa bellissima canzone di Rino Gaetano. Come sentite, insomma, era lo stile di Rino Gaetano, era questo suo modo di cantare molto poco, come si può dire, arrangiato se vogliamo, però di una genialità incredibile. E vabbè, e quindi, cari Moletta, io direi che siamo arrivati più o meno alla nostra fase, al nostro ospite questa sera, un ospite particolare direi, un ospite un po', come posso dire, una novità. Una novità in questo panorama italiano, perché questa persona è un, se mi consentite di dire, non voglio dire un eclettico, però insomma qualcuno che ha una doppia vita, di scrittore come tanti, di scrittore, ma anche di con un'altra professione. Io credo, almeno dai segnali che arrivano dall'acquario, che sia in linea, e lo presento così in diretta, è Roberto Ciai. Buonasera Roberto. Buonasera a voi. Tutto bene a Roma, almeno c'è il sole a Roma? Un giorno sì, un giorno no. Allora è già qualcosa, perché qui a Bruxelles invece un giorno no e un giorno no anche. Ecco, è una specie di scacchiera atmosferica, diciamo che sì. Sempre fortunato. Allora, Roberto Ciai che è, innanzitutto lo diciamo perché va detto all'inizio, è un avvocato, ma ancora prima di essere un avvocato è uno scrittore che è a seconda opera, ma ne aveva già scritta un'altra ed era 1494 se non sbaglio. Sì. Mentre adesso è l'uomo che salvò la vita al Duce. L'uomo che salvò la vita al Duce, scusate, sì, non riuscivo a vedere. L'uomo che salvò la vita al Duce, che è la seconda, la seconda opera, mentre la prima è stata scritta a quattro mani, da quanto sembra questa è stata scritta a tre mani, cioè quattro per un periodo e poi ridotta. Ma prima di entrare in questo libro, di spiegare che cosa narra questo libro, chiedo a Roberto Ciai di presentarsi. Chi è? Io l'ho fatta molto breve, ma lascio la parola a lui. Sono un avvocato di Roma, più precisamente di Ostia, che di notte, non dormendo più di 2-3 ore, poi si mette a scrivere dei libri. Appassionato di storia da sempre, da quando mio padre, leggevo le copie di storia illustrata di mio padre, sono rimasto appassionato di storia anche ora che fortunatamente o sfortunatamente il romanzo storico è diventato un elemento d'eccellenza nelle librerie, diciamo. È vero che è un elemento di eccellenza delle librerie, però io volevo prima di entrare scavare un po' nella storia di Roberto Ciai, e quindi può descrivere un po' il suo percorso, come nasce il Roberto Ciai scrittore? Nasce al liceo perché dopo aver letto la trasposizione in narrativa da parte di Nanni Palestrini di alcune sceneggiature dei primi 3-4 film di Dario Argento, mi erano piaciuti moltissimo i tempi di narrazione, mi è piaciuta moltissimo la ricerca su quello che poteva influenzare l'emozione in quel caso di chi osservava, ma poi trasportarla in ambito di parola scritta e vedete che in certi casi il detto e il non detto avevano una capacità di influenzare moltissimo la mente e comunque le passioni un po' troppo, le emozioni di chi percepiva la narrazione del racconto. E poi successivamente ho scritto alcuni racconti, sono stati pubblicati ed altri, e poi succede, andando avanti, un mio amico, che poi tra l'altro è il coautore di 1494, mi ha detto, dopo aver letto un libro sull'antica Roma, mi ha detto perché non ci proviamo anche noi, lui era un appassionato di Borgia, e io invece dell'Antico Testamento, e abbiamo provato a scrivere il primo romanzo, è andato molto bene. Stavamo riprovando anche per quest'altro a scriverla a quattro mani, ma poi lui ha avuto dei problemi di lavoro e l'ho dovuto completare da solo, ma poi siamo a buon punto nel seguito del primo, che si svolgerà al tempo del sacco di Roma nel 1527. Molto interessante comunque lo spunto di Dario Argento, anche perché io, questo mi consente di un po' di fare un salto giusto in mezzo, perché mentre leggevo il libro avevo proprio questo sentimento di un occhio cinematografico nella tua scrittura, cioè che praticamente di vedere delle scene di un film, e a volte le cose sono proprio palpabili e molto visuali. Questo perché questo può dipendere da due fattori, uno oggettivo e uno soggettivo. Soggettivo perché la parte visuale mi è sempre piaciuta molto, addirittura arrivando anche ai fumetti, perché il fumetto aiuta molto a scrivere. Ed anche perché oggi come oggi il lettore di romanzi storici vuole una grande componente di parte visuale, forse perché è stato abituato in questo modo dal cinema, ed è stato abituato in questo modo anche dalle fiction televisive. Questo è positivo e negativo allo stesso tempo, perché il libro rispetto al cinema, alla televisione, richiede un atteggiamento molto più attivo e quindi una costruzione mentale dell'immagine che invece negli altri campi arriva allo spettatore in modo molto più facile, più semplice. Comunque oggi come oggi, dicevo, chi legge vuole un quadro completo, vuole imparare in un certo senso la storia leggendo un romanzo, e quindi vuole una certa precisione nella descrizione, nella componentistica, diciamo così, del romanzo, e quindi questo può portare anche all'ampliamento della componente cinematografica della narrazione. La moto saltellava sull'acciottolato, eppure manteneva la stessa dignità che hanno i cavalli lanciati al trotto, nonostante sia un passo per loro del tutto innaturale. Era un piacere osservare come un pilota potesse governarla, sincronizzando braccia e cosce con tale padronanza, pur appollaiato sul piccolo e scomodo sellino triangolare. Nonostante i sanpietrini, la Norghe filava dritta anche quando la mano destra sfiorava il serbatoio per impugnare la leva del cambio. E bisognava essere in gamba per passare di marcia in marcia con fluidità, perché il pesante volano della Guzzi teneva alti i giri del motore e rendeva l'operazione difficile. Aveva circumnavigato il Colosseo con la leggerezza di una foglia intrappolata in un mulinello d'acqua e aveva imboccato Via dell'Impero provocando sguardi di ammirazione. I bambini sgualcivano i pantaloni dei padri per farli voltare. I vigili si soffermavano un attimo di troppo a guardare le moto e perdevano di vista il traffico. E le donne... Beh, le donne... Lo si vede, lo si sente, cioè, c'è anche un po' di esperienza personale dentro, cioè, se no hai una capacità immaginativa proprio spettacolare. Per quanto riguarda le moto mi sono affidato alla capacità più che immaginativa, alla capacità cognitiva di mio fratello, che sa anche quella Guzzi Norci di quanti bulloni avesse in tutta la sua struttura. Però mi piace molto il rapporto dell'uomo con l'oggetto, in questo caso che diventa quasi un tutt'uno con se stesso. Poi è bello, se non credo che sia bello, poter comunque sentire che in un momento non c'era una semplice moto, ma sentire che c'era un modello, sentire che chi scrive conosce il modello. Cioè, credo che a me personalmente, quando leggo un romanzo storico, piace abbandonarmi alla conoscenza di chi lo scrive. Spero che sia così anche per gli altri, me lo auguro. Volevo anche chiederti, cioè adesso un po' allontanandoci magari dai bei dettagli che si trovano nel tuo libro su ogni pagina, di chiederti perché proprio questa scelta, cioè perché questo periodo? Ma ne parlavo qualche tempo fa con un giornalista di Canale 5 che mi ha fatto un'intervista e gli ho detto che era, a mio parere, era l'ultimo periodo romantico della nostra storia recente, gli anni 30, gli anni 40. Lui sostiene che anche il 68 sia stato altrettanto romantico, però i presupposti erano naturalmente differenti. Credo che parlare dell'universo interno di un uomo, quindi delle emozioni che sconvolgono l'esistenza di un uomo, e in un ambito coerente, ossia con un periodo in cui le emozioni e le passioni erano molto molto importanti, abbia una certa nota particolare, perché nonostante Anna Magnani dicesse che le grandi passioni non esistono, sono bugie, io mi permetto di sentire nella mia piccola parte, mi permetto di sentire, perché sono le passioni a far comportare gli uomini nel modo che da un punto di vista narrativo è più interessante. Sì, le emozioni sono quello che sta sotto la scorza dell'uomo, quindi è il fuoco, è quello che fa muovere tutto quanto, sono assolutamente d'accordo con te. E adesso che abbiamo presentato il modo anche in cui scrivi, questa grande capacità immaginativa, questa grande capacità di visualizzare le cose e quindi di rendere, ecco, il tuo libro è uno ci entra dentro come in un film. Sembra veramente di essere come in un viaggio tridimensionale all'interno delle cose, anche se sta solo leggendo, però veramente riesce a sviluppare l'immaginazione. Io ti ringrazio. E da questo punto di vista, però, io adesso vorrei entrare invece sulla storia, sulla trama. Dicevamo questa storia che è un periodo romantico, ma non abbiamo ancora parlato del libro e di che cosa parla. Sappiamo solo il titolo, è L'uomo che salvò la vita al duce di Leone Editore, però non sappiamo che cosa succede. Qual è lo sviluppo della storia? Sappiamo che durante il periodo fascista, ma dove? Alla fine, all'inizio, dove siamo? Allora, diciamo che il protagonista, o almeno uno dei protagonisti, è un uomo che salva la vita a Mussolini durante un attentato particolare, perché ispirato da un vero attentato, l'attentato che Mussolini subì ad opera di Anteo Zamboni, che fu tra l'altro linciato dalle camicie nere, un attentato particolare che però non va a buon fine, e quest'uomo salva la vita a Mussolini e Mussolini lo prende come una persona di fiducia e partecipa all'incidente che avviene in Ogaden, se non sbaglio, nella metà degli anni 40, negli anni 30, e successivamente viene ferito. E questa sua ferita alla testa lo porta ad essere ricoverato all'ospedale di Santa Maria della Pietà a Roma, che a quel tempo era il più grande ospedale, il manicomio, era il più grande manicomio d'Europa ed il più antico. A pochissimi millimetri dal suo cervello galleggia una scheggia che mette in pericolo tutti i suoi ricordi, tant'è che i suoi ricordi svaniscono giorno dopo giorno, riga dopo riga. Tra i suoi ricordi però c'è un segreto importante che costituisce il dramma per la vita di un altro uomo e che poi scatenerà in un certo momento un odio terribile tra i due veri protagonisti del romanzo, che li porterà ad inseguirsi per tutta la Roma degli anni 30, la Roma del fascismo consolidato, delle Topolino, della Marisola Bella, degli slogan sui muri, dell'Orbace, esatto, fino alla a Nord Africa, alla Tobruk riconquistata, alla vigilia dell'Alamein, e poi di nuovo a Roma il giorno del bombardamento di San Lorenzo nel 1943. Beh, questa precisione con la quale esponi e anche con la quale scrivi, ovviamente tu l'hai accennato all'inizio, insomma è stata una bella ricerca, era stata scritta, poi forse parleremo, magari abbiamo qualche minuto per parlare anche dell'altro libro, ma su questo stavamo dicendo che c'è stata una ricerca abbastanza lunga. Se non erro, una ricerca durata almeno 2 anni, o sbaglio? Eh sì, una ricerca durata 2 anni perché addirittura sono andato a ritrovare, per esempio, ecco, una parte del romanzo si svolge a Tripoli e di Tripoli non c'è, della Tripoli fascista ci sono pochissime tracce anche sui libri. Sono andato a trovarmi addirittura un libro scritto negli anni 30 da un ufficiale dell'esercito italiano che descriveva i colori e gli odori addirittura del Nord Africa, di Tripoli, di Bengasi, in maniera talmente bella e particolareggiata che veramente me lo tengo come fosse un sussidiario di scuola. E poi ho trovato addirittura dei libri del periodo, addirittura una guida turistica per Roma del 1930, nella quale venivano descritte tutte le fermate di tutte le linee, sia di autobus che di tram, e gli alberghi, i negozi dove vicino a queste fermate, in una maniera talmente capillare che mi è stato utilissimo. E è proprio questo che muove tante volte il narratore, quello di poter dire statemi a sentire, perché almeno parte di quello che vi racconto è vero. E adesso vorrei chiedere invece a Roberto Ciai, che è avvocato e che è scrittore, devo dire anche un bravo scrittore, perché se provate a cercare anche un po' di recensioni troverete solo cose positive sul suo conto e ne ha ben donde. Ma adesso vorrei chiedere al Ciai ricercatore, cioè questa ricerca che dura 2 anni, bene, nel mondo in cui ormai si fa tutto su internet, uno cerca, va su internet, Google e cerca, eccetera, qui mi sembra invece che ci sia tutto un altro tipo di ricerca, e io chiedo a Roberto Ciai, hai voglia di svelare qualche, non voglio dire trucco, però qualche capacità, qualche talento di ricercatore che sicuramente hai per aver trovato questo materiale? Come si fa a ricercare? Possiamo dire qualcosa ai nostri lettori? L'importante è, secondo me, fidarsi di internet soltanto per i riferimenti molto generali, ossia se io in un romanzo medievale parlo di bottiglia prima del XVII secolo sbaglio, quindi magari se per essere sicuro vado su Wikipedia e vedo bottiglia e mi dà qualche riferimento, ma se si tratta di fondare una narrazione su particolari storici, la prima scelta sono i testi coevi, quindi andarsi a cercare, andare a trovare dei riferimenti su testi del tempo, se possibile naturalmente, oppure su testi riportati da altri autori, però sempre con riferimento al tempo della narrazione. E così progressivamente lasciando internet veramente per ultimo. Io per esempio frequento molto i negozi dove ci sono libri di seconda, terza, quinta mano, vecchissimi libri. Ce n'è uno davanti al Tribunale di Roma che è eccezionale. Immagino, perché bisogna avere anche la capacità, io credo anche l'umiltà, scusa se lo dico, di andare a sporcarsi le mani, cioè di andare a perdere il tempo, a occupare il proprio tempo alla ricerca appunto di questi libri, materiale prezioso, nei luoghi. Credo che ci sia anche una lezione di umiltà dalla quale vorrei imparare. Io penso che sì, è vero, ma fa parte delle passioni che dicevamo prima. Si sporca la mano il meccanico che la muove su un motore, sul grasso di un motore, si sporca la mano chi spoglia il libro per la passione di trovare dei particolari storici che possono servirgli a raccontare una storia, se non altro almeno per sentire persone che dicono questo libro mi è piaciuto, oppure anche soltanto, e questo, in questo sono più che sincero, per avere il piacere di fare un'intervista con persone come voi, che veramente mi riempie di piacere. E visto che parlavi di grasso, di olio, insomma, invito i lettori, quando acquisterete il libro, lo ricordo ancora, L'uomo che salvò la vita al duce di Leone Editore, quando acquisterete il libro, perché sono certo che vi piacerà moltissimo, verso la metà, diciamo dalla pagina 258 in poi, poco dopo, troverete una bellissima descrizione di un tal Italo Maioli che arriva con circa 8 minuti di ritardo, e le vedrete la descrizione proprio del grasso che si attaccava agli occhiali, al caschetto, insieme al conte. È una pagina che secondo me è molto bella, proprio perché si unisce a quello che stavi dicendo tu sul fatto di mescolarsi con le cose, di sporcarsi le mani però con le cose che si stanno facendo, che si creano. Forse questa è una curiosità mia: come scrivere a quattro mani? Com'è possibile avere alla fine un racconto che è unito, che è proprio indivisibile, se possiamo dirlo così? Allora, una volta ho ascoltato una conferenza fatta da Wu Ming, il collettivo di scrittori che ha scritto Altai, ha scritto Manituana, eccetera, eccetera. E loro sono in cinque, se non sbaglio, e loro ciascuno scrive un capitolo e poi se lo riguardano tutti insieme. Con Marco non è stato possibile, perché i nostri stili di scrittura sono talmente differenti che il libro sarebbe stato illeggibile. Quindi ciascuno porta le proprie idee, però poi alla fine lo stile è il mio, la scrittura è la mia, perché altrimenti poi si sentirebbe la differenza tra un capitolo e l'altro, e sarebbe un libro praticamente inaccessibile. Bisognerebbe fare questa domanda a Fruttero Lucentini per saperne cosa ne pensano, come funziona. Sì, ma molte volte, per esempio, anche ho letto dei libri di Ferisatti e Pittorru, che erano anche sceneggiatori di anni 70-80 della Rai, e loro avevano, cioè lì o si trova un elemento che unisce uno stile unico, o si cresce insieme anche nello scrivere, oppure è necessario che poi tutto venga riscritto da quello dei due che appunto tiene unito lo stile, insomma, perché sennò diventa impossibile, si leggono cose completamente dissonanti, con stili completamente dissonanti da un capitolo all'altro. Ahimè, il tempo passa molto molto velocemente, specialmente in buona compagnia, però prima di doverci separare, volevamo sapere se avevi qualche progetto futuro, già qualcosa un'idea nel cassetto che potresti condividere con noi. Allora, appunto, ho scritto l'ultimo capitolo di questo romanzo ambientato nel 1527, che è il seguito del 1494, ma a distanza di molti anni, quindi con molte cose cambiate, ed è stato bello e difficile allo stesso tempo, perché nel 1527 i Lanzichenecchi hanno invaso Roma ed hanno ucciso 30.000 romani della popolazione di 50.000 senza che nessuno intervenisse in loro aiuto. Quindi una storia che si svolge in un bagno di sangue, però che bisogna comunque rendere senza, appunto, come dicevo all'inizio, senza far rammentare i film, senza far rammentare Profondo Rosso, insomma. Ed è stata una bella esperienza, perché Roma in quel caso è stata veramente quel che rimane, quindi la roccia rispetto a quel che passa, che è il vento. Bene, allora, come già annunciava Imola, purtroppo il tempo scarseggia, quindi dobbiamo chiudere questa nostra piacevolissima, almeno da parte mia, conversazione con Roberto Ciai. Vi ricordo il suo libro L'uomo che salvò la vita al Duce, Leone Editore. Vi ricordo però anche, sempre di Leone Editore, un libro, un'altra Bibbia, si chiama 1494, e poi non ricordo il resto del titolo. L'ombra dell'Inquisitore. L'ombra dell'Inquisitore, grazie, mi veniva in mente Torquemada, però mi sfuggiva il resto. Sì, c'è lui, infatti, c'è lui. Ci deve essere. E dopodiché, aspettiamo la prossima fatica, ormai dovremmo essere addirittura d'arrivo, la prossima fatica di Roberto Ciai, ma insomma, se il buongiorno si vede al mattino, qua, attenzione, mettetevi della crema solare, perché ci sarà da scottarsi da quanto sole ci sarà. E io, Roberto, ti saluto, ti ringrazio infinitamente. Non so se vuoi salutare qualcuno, vuoi approfittare dei microfoni. Allora, io mi permetto di salutare voi, perché tra tutte quelle che ho fatto, questa è stata la intervista più gradevole, e ve lo dico con piena sincerità. Ti ringrazio. Probabilmente è il freddo di Bruxelles, la nostra pioggia che ci porta al sud, quindi ci attacchiamo meglio di quello che passiamo. Ti ringrazio ancora, un grandissimo in bocca al lupo, ma insomma, veramente è stato un grande piacere per noi, perché abbiamo scoperto qualcosa di veramente estremamente interessante, almeno io parlo per me, ma vedo che anche Imola sta accennando, fa di sì con la testa. Quindi ti ringrazio ancora e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, buonasera. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Librangolo di nuovo, stasera praticamente è come se fosse un grandissimo librangolo, perché vi parliamo di libri, vi suggeriamo delle belle letture e continuiamo su questa onda. E continuiamo anche un po' su un po' libri storici, anche se stavolta si tratta di un'utopia. Thomas More? Un falsa storia, no? No. Ah, non è Thomas More Utopia? Utopia? No. Ah, no, no, no. È un falso storico, no, non ho capito. È un falso, cioè nel senso, voglio dire che questi sono quasi come se fossero romanzi storici, eccetto che la storia se lo inventa l'autore, fondamentalmente, cioè sta presentando un possibile binario, diciamo, che la storia potrebbe prendere, e sta cercando di esplorare dove questo ci potrebbe portare, anche per farci capire meglio noi stessi, come funzioniamo, dove possiamo arrivare e specialmente perché. E queste cose io le trovavo sempre molto interessanti, cioè ovviamente l'esempio più interessante e più bello, continuo a dirlo, è il 1984, cioè con i numeri 1984 di George Orwell, che proprio secondo me è proprio è l'essenza, è il libro dei libri, in questo genere, scritto benissimo e con un rigore che proprio ti fa avere paura che questo potrebbe succedere da ogni momento all'altro. Invece stasera parliamo di Margaret Atwood e del suo libro Il racconto dell'ancella. E in questo libro, corriamo un po' avanti nelle nostre possibili storie, arriviamo in un momento in cui il mondo, in specifico gli Stati Uniti, dove si svolge la storia, hanno subito vari incidenti nucleari, vari eventi che soprattutto diciamo inquinano l'ambiente, il che non è che porta necessariamente, diciamo, a una coscienza dell'inquinamento dell'ambiente, cioè non si tratta di un libro che è focalizzato su questo tema, ma è piuttosto sulle conseguenze sulla salute umana, sul fatto che meno bambini nascono e molti bambini che nascono sono deformati, e che quindi ad un certo punto ci troviamo in una società dove ci sono pochissimi bambini, quindi praticamente la sopravvivenza non è più garantita. A questo punto le donne che sono sane, che non sono toccate, diciamo, da tutti questi inquinamenti nucleari e non, diventano un valore. Diciamo un valore, ma dall'altro lato un valore da utilizzare, quindi praticamente come se fossero delle fabbriche per fabbricare dei bambini sani per la società. E quello che succede nel libro è che un governo autoritario prende il potere costruendo una società bibbica, se possiamo dirlo così. Cioè, quello che fanno loro è che si riferiscono alla parte dell'Antico Testamento di Lea e Rachel, cioè che c'è la l'ancella che porta il bambino, che però non diventerà suo, ma è il bambino che porterà avanti la casa stessa, quindi diventerà un bambino della signora della casa alla fine. E praticamente si ricrea questa situazione, si ricrea una casta di donne che sono contraddistinte dal vestito, e anche molto condizionate, molto ristrette nella loro libertà di movimento, che vanno da una casa di potente dall'altra casa di potente e hanno il ruolo di concepire, fondamentalmente. E da tutto questo l'amore, la passione è eliminato nel maggior modo possibile. E ovviamente questa società ha anche altri altre proprietà, è comunque una società autoritaria, che di conseguenza non porta tanta libertà a nessuno, nemmeno a quelli che sono al potere. E questa è la storia di una donna all'inizio di questa presa di potere, all'inizio della storia di questa società alternativa, che si ricorda ancora dei tempi di prima, dei tempi di libertà, che ha avuto una sua, diciamo, una sua famiglia, aveva una figlia che hanno preso da lei e hanno dato in affidamento ad una famiglia di potenti, e lei invece è forzata praticamente di dimenticare questo suo passato, almeno è quello che questa nuova società vorrebbe, e di chinare il capo e entrare e diventare una fabbrica di bambini, fondamentalmente. E allora quello che vediamo sono le piccole vicissitudini della vita di questa ragazza. Però senza necessariamente la comprensione dei processi che ci sono attorno. Cioè, tu, per esempio, se un giorno ti svegliassi che hanno ammazzato tutto il Parlamento, hanno preso il potere e ti forzano, cioè ti plasmano con la forza in un modo di essere, e tu non hai praticamente altra scelta, molto probabilmente non è detto che tu capiresti che cosa sta veramente succedendo, ed è questa insicurezza che fondamentalmente rafforza anche il potere che si ha su di te. Il fatto che non sai che cosa sta succedendo, che non sai qual è il vero concetto dentro l'organizzazione della società nel modo in cui si organizza, non capire bene cosa è successo al momento della presa del potere, praticamente ti fa sfuggire dalla mano ogni potere sulla tua storia personale, o ogni potere, anche ogni possibilità di agire in questa nuova situazione. Ovviamente anche qua ci sono comunque quelli che resistono, quelli che cercano di mettere su delle reti di resistenza, che come sempre sono una cosa difficile. Però la cosa strana è che alla fine del libro, alla fine del racconto, praticamente ci dicono che queste erano delle registrazioni ritrovate, e ci troviamo ad un tratto ad una conferenza di scienziati, quindi quelli, cioè la generazione, fra tante generazioni da questo momento, quindi in una nuova libertà che però era basata proprio su questo, questo periodo di anche autocrazia. Ed è anche questo un aspetto interessante di questo libro, nel senso che il racconto ci fa vedere un po' come inizia un nuovo concetto nella società, che generalmente non è mai una cosa, un lieve passaggio da un modello all'altro. Quando ci sono dei cambiamenti radicali non succedono mai in modo pacifico, generalmente c'è un grande boom che li provoca. E quindi noi vediamo quello che succede nel momento del grande boom, con delle scelte che ovviamente dal punto di vista dell'individuo sicuramente uno dice: questo non può essere giusto, non puoi reprimere così la libertà individuale, non si può, cioè, tutta la nostra natura si ribella di fronte alla situazione base. Ma poi quello che vediamo è che fra tante generazioni praticamente quello che hanno fatto in quel momento, sbagliato o giusto che sia, ha comunque davvero contribuito a poter ottenere una società che poteva di nuovo muoversi liberamente, perché ha sopravvissuto, praticamente ha sopravvissuto in quel critici numeri, per cui non c'era più bisogno di forzare nessuno a fare, diciamo, niente fra virgolette. E quindi loro stanno guardando questo documento del passato con interesse, e anche con il dubbio dello storico, che non è sicuro che quello che si racconti là sia veramente la verità. Quindi sì, c'è questo dubbio che sicuramente abbiamo anche noi sulla nostra stessa storia, quella vera, che è molto difficile ricostruire che cosa succede all'individuo e come questo entra nella nostra storia, e la nostra libertà acquisita adesso a che prezzo è stato acquisito in un momento passato. E di conseguenza io ho trovato questo libro molto molto interessante da questi vari punti di vista, cioè fondamentalmente fa molto pensare, oltre ad essere una storia interessante, non aspettatevi un libro filosofico, è un libro che racconta le vicissitudini di questa ragazza, che seguirete, sono sicura, con interesse. Però possiamo ricordare chi è l'autore? Allora, Margaret Atwood, Il racconto dell'ancella. Il racconto dell'ancella, abbiamo anche la casa editrice, no? No. Andate su Google, cercate Margaret Atwood, Il racconto dell'ancella. Insomma, vabbè, che bella puntata. Mi veniva in mente un po' di cose. Mentre parlavi mi veniva in mente prima Star Trek, in un episodio in cui si tratta proprio il prequel di Star Trek, con la bellissima Jolene Blalock, o Yolen Blalock, come vogliate dirlo, e in cui si tratta proprio di un episodio in cui c'è una persona, una coppia, con un'ancella di questo tipo, proprio per George, la creazione. George, lo puoi dire in diretta che a Carnevale, quando eri bambino, ti vestivi da Dottor Spock? Vabbè, le orecchie c'erano, il naso pure. E che dovevo fare? Era così. E poi invece alla fine, quando tu accennavi all'ultima cosa, mi era venuto in mente Stargate. Molto science fiction, sei tu, sera. No, Stargate, tutto perché, Star. No, lo so, sapete, il film, non il telefilm o la serie TV, il film proprio con... Chi si ricorda l'attrice di Stargate? Vabbè, ha fatto anche... The Silence of the Lamb. Ah, Jodie Foster. Bravissima, Jodie Foster. Yuhu, che entra in questa palla di vetro. Hai vinto il fatto di poter vincere Jodie Foster in radio. No, e a un certo momento questa cade e dice: è stato un bellissimo viaggio. Loro dicono: non c'è stato nessun viaggio. E lei dice: sì, perché per 8 ore il mio registratore ha registrato qualcosa. Il silenzio, ma l'ha registrato per 8 ore. Dove sono stata per quelle 8 ore? Ecco. Questo è il dubbio dello storico, questo è vero o non è vero? Insomma, ci sono dei residui che lasciano sempre il pensiero aperto. E noi vi lasciamo con questo dubbio. comunque studio amletico. Fino alla prossima volta, quando saremo tutti, ci saremo tutti, spero. Salutiamo Maridì. Salutiamo Maridì per prima, che non c'è, quindi insomma, onore che non c'è. Salutiamo invece il grande regista, al di là dell'acquario, il grande Danny M. Ciao a tutti, grazie per il grande. C'è di fronte a me la splendida Imoletta. E di fronte a me il George dalla voce di velluto. Oh, meno male che non è bagnato. Ciao. Alla settimana prossima, ciao.